Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Benvenuti, abbiamo Pietro alla corte in regia, la parte tecnica, e Giorgio De Luca in assistenza, ma soprattutto abbiamo, cari amici a casa, Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi, ascoltatori, sarà una puntata molto speciale. Noi siamo proprio caricati a molla, tra l'altro c'è un sole meraviglioso qua a Milano, e poi lasciamelo dire, abbiamo in studio la nostra guru. E non, tu vorresti che dicessi sei tu Nicoletta, invece no, ne abbiamo un'altra. Abbiamo la dottoressa Manuela Trinci, che noi adoriamo, psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Di solito l'abbiamo al telefono e oggi invece qua con in noi. Carnina. Ecco perché siamo così felici. Allora, buongiorno. E allora oggi ci sarà da lavorare, perché con Alberto, prendendo spunto da un film che devo dire c'entra molto con la nostra trasmissione. Indovinate un po' di quale film parliamo, Alberto? Dai, genitori, qualche aiuto. Genitori e figli, istruzioni per l'uso. Allora, abbiamo pensato di coinvolgere, approfittare della dottoressa Trinci per dare un po' anche noi le istruzioni ai genitori, ma soprattutto vogliamo farci aiutare dai genitori. Qual è l'istruzione che vi ha fatto svoltare, vi ha fatto veramente risolvere magari un piccolo o grande problema con i vostri figli? Spesso tra noi genitori ci si dà delle istruzioni, a volte anche istruzioni arrivano da persone che non hanno figli, che sono quelle più, no, io farei così, ah, se fossero i miei. Insomma, oggi ci mettiamo a confronto e cerchiamo di fare una sorta di diario. Figli, istruzioni per l'uso, ma anche mi piacerebbe fare, Alberto, chiedere ai ragazzi in ascolto se ci danno delle istruzioni per prendere un po' per il verso giusto questi genitori. Pensa cosa faranno i tuoi figli, Alberto, con un osso duro come te. I miei figli ne avranno un bel po' da dire. Credo che effettivamente ci servono tutti gli ascoltatori, anche i non genitori, perché sono stati figli e probabilmente hanno conservato nel loro cuore, nella loro memoria emotiva, un passaggio, uno stile, un modo di essere della loro mamma o del loro papà che hanno sentito far loro particolarmente bene quando erano ragazzi. E devo dire che anche nella comunità di noi genitori, tra l'altro, lasciamelo dire, io ne ho incontrati tanti questa settimana, ieri ero a Rovereto, saluto anche i genitori di Piacenza, mi accorgo come sia fondamentale tra genitori costruire una rete fatta proprio di delle nostre storie, dei nostri racconti. E io comincio subito a dare non un'istruzione ma un consiglio, cioè è fondamentale, e ce lo siamo detti proprio con tante mamme e papà in questi giorni, che tra noi mamma e papà rimanga molto vivo il dialogo, intanto di coppia, cioè non dobbiamo mai dimenticare di essere uomo e donna, partner affettivi, e di tutelare un po' la nostra vita amorosa. Sì. L'altro aspetto è molto importante, che impariamo a parlare dei nostri figli, non solo di fronte ai nostri figli. Spesso quando ci provocano noi urliamo, non sono d'accordo. Tu non lo fai mai, Alberto, di la verità. No, ogni tanto lo faccio anch'io. Ma è proprio importante parlare dei nostri figli nel nostro luogo, cioè nella camera da letto. Ve lo chiedo a voi genitori, vi solo capita? Solo in camera da letto bisogna parlare oppure no? Vai Manuela, vedo che non sei d'accordo, vai. Assolutamente sono d'accordo, però io vorrei mettermi dalla parte degli adolescenti, sì, e consigliare e vedere se riescono a telefonarci, a farci arrivare dei messaggi, perché sarebbe molto divertente preparare un manuale a uso degli adolescenti che hanno genitori difficili. È quello che infatti proponevo io, proprio infatti, i ragazzi. Riprendevo la tua. Molto, noi siamo un po' in difficoltà in quest'ora, perché se uno non bigia la scuola, a quest'ora i ragazzi, gli adolescenti sono a scuola, ma qualcuno magari è scappato e magari si mette in contatto con noi, o anche chi è uscito dall'adolescenza da poco, e quindi si accettano anche istruzioni da ragazzi universitari, certo, nella seconda adolescenza. Anche nella terza. Insomma, potete dire anche voi che non siete adolescenti la vostra, facendomi scambiare per tali. Allora, quali sono i temi che vi fanno più discutere? quali sono i temi su cui voi siete, vi sentite strutturati, insomma, come dice Alberto, li state presidiando, e quali invece quelli su cui non trovate alcun accordo? Magari sono le uscite serali, la paghetta, una scelta di fare dei ragazzi di andare in vacanza, e naturalmente i fidanzatini suggerisce che spesso non piacciono, vero? I fidanzati non piacciono della ragazza, non piacciono al papà e viceversa, le mamme già da piccole, no? Quando iniziano a fare le suocerine. 824 0024, io direi che abbiamo detto che un po' la puntata di oggi prende spunto dal film di Veronesi, ne sentiamo Pietro un breve estratto. Tu vuoi andare a vivere in un residence, vuoi lasciare papà da solo vecchio com'è? Sì, ma voglio dire, sono 50 anni che state insieme. Ma se papà non ti ascolta, perché è sordo? Non è incompatibilità, è sordità. Genitori e figli, istruzioni per l'uso. Perché i genitori non è che sono una categoria che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli. Ma sei cretino! Adesso tutti insieme siete diventato razzista! Ma almeno lo sai cosa vuol dire essere razzista! Sì, è quando ti fanno schifo quelli che vengono dagli altri paesi. Ecco, lo so. Fabrizio Cafiero, per me era il più figo della scuola. Non mi aveva mai guardata e ora, per la prima volta, mi prestava delle attenzioni. Ma cosa lo volevi fare tu? Ma non è mica una cosa che si fa a comando! Ma tutte le mie amiche l'hanno già fatto! Ma chi se ne frega delle tue amiche? Cos'è, una gara chi la smolla prima? Ce ne sono milioni come te di ragazzi, in fila, pronti alla scorciatoia, alla vita facile! Sì, Luigi, ha ragione, papà, è un po' umiliante. 6 milioni di italiani guardano il Grande Fratello! Siamo tutti dei coglioni! Sì! Scusa, non papà? Chiedere. Scusa. Arriva Mare! Oddio, che vergogna! Clara! Le liti tra i miei genitori erano continue. Io, per non ascoltarli, immaginavo che pronunciassero solo una sfilza di numeri. Tu sei più o meno intelligente dei tuoi amici? Più intelligente. Per una donna l'intelligenza è importante. Più delle tette e culo. Ma che tu non hai pippa la cocaina? Che dici, sarà forfora. Che schifo, ma come forfora? Catroia, c'è mia madre. Per te sarà finita, per me non è finita manco per niente. Io non sono fatta per fare l'amante, ho la faccia davanti. Sì, ma non ho capito, se lui che è alto o tua madre che è bassa. La perdita della virginità, Nina, è come il tuo primo giro di boa. Ma questa è una perla, va sparata subito in rete. No, dai, non facciamo cazzate, poi se lo scopre... Ma che, tuo padre va su internet? Partito. Ci ritroviamo un po' tutti, no? In questo film, Alberto. Tu ti sei ritrovato? Beh, direi che è una bella giostra proprio anche in questo veloce trailer. Abbiamo sentito proprio tutte le storie, tutte le faccende, tutte le vicende delle nostre discussioni familiari. Credo anche proprio del mondo dei sogni che sono entrati nella vita dei nostri figli e che spesso sono così lontani dai sogni che abbiamo avuto noi e quindi ci confondono poi nel momento in cui i nostri ragazzi dicono io ho quel sogno e lo vediamo come sogno irraggiungibile. Manuela. Ma dunque, io ho recentemente visto molti ragazzi adolescenti in un'iniziativa che è stata fatta a Pistoia con il Teatro Manzoni e saluto tutte queste centinaia di ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo. E a proposito dei sogni, mi fa venire in mente che uno degli argomenti che i ragazzini e le ragazzine portavano di più in queste riunioni era il fatto che loro non si riconoscevano nelle vite tristi, bige dei genitori, come se avessero dentro la voglia di un entusiasmo che non ritrovano nei genitori, e questo lascia, io penso, una dissimmetria fra i ragazzi e i genitori che guardano alla vita in una maniera disincantata, mentre i ragazzi per esempio hanno un bisogno, un desiderio enorme di giustizia, che le cose siano o bianche o nere, e quindi le famiglie vengono guardate con gli sguardi anche di chi è critico. Mi sembrava che in questo giro che è stato fatto sul film davvero si possa vedere questa maniera ancora, che è un incanto e contemporaneamente un disincanto, direi il disincanto dei ragazzi, cioè che hanno lo sguardo voglioso di verità. E forse noi dobbiamo interrogarci se ancora abbiamo voglia di verità o di mezze verità o qualche volta anche di menzogna. Teniamo l'idea del proprio istruzioni per l'uso, quindi ad un figlio che vuole volare alto e un genitore che ha questo paio d'occhiali che lo fa stare molto più raso terra, un po' noiosetta, insomma l'idea di... Tu cosa consigli? Cioè come si fa a mantenere insieme realtà e passione? Qua nel film tra l'altro entrava questo sogno dell'entrare dentro al Grande Fratello come uno dei sogni possibili da coltivare nel tuo essere giovane, un genitore che dice vola basso. Io credo che il sogno del ragazzo vada accompagnato senza caderci dentro, cioè mantenendo anche degli aspetti di realtà che ovviamente un genitore deve avere, però ecco, va accompagnato, perché non è possibile nemmeno che ragazzi, quando hanno un desiderio, quando hanno anche qualche cosa di impossibile da realizzare, se questo rientra nell'etica della famiglia, allora questo può essere sostenuto e fatto vedere anche gli aspetti negativi che tutto questo può produrre nella vita. Ecco, però credo che laddove non c'è un'etica che viene intaccata, allora il genitore può sostenerlo. Laddove invece questo va contro, viola quelle che sono le regole magari o le idee della famiglia nella quale il ragazzo vive, il genitore, io credo, che con coraggio debba sostenere le proprie opinioni e andare anche verso un conflitto che oggigiorno non siamo è molto più difficile. Capaci, sì. Noi prima dicevamo quali sono i temi che vi fanno discutere a casa e noi notiamo sempre di più, anche ne parliamo spesso con Alberto, che i genitori di oggi, mi metto dentro io per carità, sono un po' allergici al conflitto, sono disposti a scendere a patti prima dello scontro, quasi che ci mancasse un po' il coraggio o ci sentissimo inadeguati poi a proseguirlo, no? E poi anche a risolverlo in modo efficace, produttivo. Alberto? Credo che uno delle fatiche grandi è che siamo diventati anche molto amichevoli con i nostri figli, per cui ci piace proprio stare lì di fianco a loro, per cui quando dobbiamo rimetterci davanti a loro, fare un po' da scudo, fare da protezione, fare da guida, dare indicazioni molto molto chiare, quindi sostenere un no, questa cosa qua ci fa sembrare, siamo forse... ridiventiamo come quei papà che abbiamo avuto, che erano là in alto sul loro trono, davano le regole, ci castigavano alla sera, li sentivamo così lontani. Ecco, questa cosa ci fa soffrire adesso che li abbiamo amati così tanto, i nostri figli, dobbiamo toccarli con il nostro no che genera in loro così tanto dolore. Tanti genitori non ce la fanno. Ma quali sono, io lo chiedo a voi che siete esperti, i problemi che più agitano le famiglie degli adolescenti? Alberto, tu che li hai incontrati tanti in questa settimana, puoi fare sicuramente un hit parade, certo. Ti fai aiutare da Manuela. Riprendo alcuni sms che ci stanno arrivando. Di sicuro il tema della responsabilità, cosa significa rendere responsabile un figlio, dare un'ora di rientro, fargliela rispettare, come la si negozia. Un'altra cosa che secondo me manda molto in crisi oggigiorno i nostri genitori è il look, in particolare il modo in cui si vestono, come il tatuaggio, il piercing. I papà impazziscono per esempio di fronte ad alcune delle loro figlie. Ecco, allora diamo due istruzioni per l'uso su questi aspetti. Sulla responsabilità non si può far diventare un figlio responsabile dall'oggi al domani, e soprattutto dobbiamo essere noi a dare l'esempio, essere genitori responsabili, perché sennò non siamo assolutamente credibili. Ma qualche indicazione possiamo darla anche su questo fronte, Manuela? Dunque, io credo che sia vero quello che avete detto entrambi, cioè mi trovo d'accordo. E poi io direi ai genitori che questi adolescenti sono stati bambini. Quindi ecco, non è che si improvvisano le regole o che si improvvisano le istruzioni per l'uso quando uno compie 16 anni o 15 anni. Intanto io penso che il genitore stesso debba essere meno ambivalente di tanti genitori che io vedo. Quindi, perché da una parte sono contenti se la figlia è bella e si mette la minigonna e fa anche, insomma, fa una bella figura. Quindi c'è sicuramente un meccanismo di riconoscersi, di identificarsi. Dall'altro lato c'è la paura, il timore tutto umano, che tutto questo possa scatenare chissà cosa. Quindi ecco, credo che il genitore dovrebbe riuscire, come istruzione per l'uso, a mantenere dentro di sé questi aspetti più personali e conflittuali, mettendo una distanza e dando al ragazzo delle regole veramente esatte. Laddove per esempio non si rientra all'una, perché a 16 anni uscire e rientrare all'una è più che ragionevole, Allora a quel punto lì si comincia anche a poter pensare a delle punizioni, a togliere altre uscite, a togliere un'uscita a motorino, a togliere una domenica pomeriggio da passare con gli amici. Cioè, io credo che il genitore debba fare il genitore. Il genitore. Vediamo se fa il genitore Maria Grazia, che ci chiama da Cesena. Buongiorno Maria Grazia, benvenuta. Buongiorno carissimi a voi e grazie per avermi richiamato. Dunque, io ho vissuto in una famiglia dove c'era tanto amore fra mia mamma e mio babbo. Sì. E da mio babbo non ho mai preso neanche uno schiaffo, in quanto mio padre aveva delegato mia mamma la nostra educazione. E ho telefonato perché mi sono venute in mente le parole che mia nonna, la nonna materna, diceva a mia mamma: figli piccoli, pensieri piccoli, figli grandi, pensieri grandi. È vero. Ecco, e mio padre e mia nonna diceva che era stato il migliore di tutti i suoi figli, che aveva avuto altri tre maschi, mia nonna, e infatti mio padre dovrebbe essere fatto santo per quello che abbiamo fatto fino alla fine per mia mamma, che purtroppo se n'è andata purtroppo molto presto. E niente, io oggi compio 68 anni perché sono nata il 6 marzo del 40. Oh, auguri! Ma che compio, cioè faccio anche 38 anni di matrimonio, perché nello stesso giorno del mio compleanno mi sono sposata. Però Maria Grazia, così lei si è praticamente fregata un regalo. Ma lasci stare, il discorso è che io avevo mia mamma in ospedale il giorno del mio matrimonio, le avevo preparato tutto, il cappellino, la borsa, le scarpine, tutto. Però... e purtroppo appena fatta la cerimonia sono andata all'ospedale a portarle il mio bouquet. Oh, mi ci racconta. Senta Maria Grazia, io la ringrazio per averci chiamato, ci ha raccontato un pezzo della sua vita e quindi noi insomma ha aperto le porte del suo cuore, e questo a noi commuove sempre perché ci ha fatto sentire amici. Io la ringrazio e... riprendo velocemente una frase di Maria Grazia, che è: figli piccoli, pensieri piccoli, figli grandi, pensieri grandi. Uno dei problemi dei genitori di oggi è che figli piccoli sarebbero pensieri piccoli, ma se non mangiano una papa diventa un pensiero grandissimo, ed è per questo che poi quando arrivano i pensieri grandi sono proprio a terra. Cesare da Milano, buongiorno Cesare. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione che è molto interessante, perché questi giovani oggi veramente sono un grosso problema e sono la nostra futura società. Non voglio fare molta retorica. C'è del falso buonismo da parte di noi adulti. E io sono un uomo di 65 anni e ho figli di 15 e 18 anni. Sì. E c'è del falso buonismo. Perché? Perché sembra che, soprattutto, dico, nelle scuole, sembra che tutti questi ragazzi siano bravi, tutti i ragazzi siano buoni, tutti, e non è vero, perché dipende poi sia dalla scuola sia dalla famiglia mettere a posto questi giovani e non creargli semplicemente dei sogni fasulli. Quello che lei dice giustamente, è l'adulto che deve seguire questi ragazzi. Perché oggi come oggi, mi permetta, io vengo dall'Australia, oggi come oggi in tutto il mondo, non dico soltanto in Italia, ma in tutto il mondo si è creato una falsa pista per i giovani, delle false credenze, delle false falsi sistemi diciamo di miglioria. Invece non è vero, siamo in una profonda crisi economica, si figuri questa crisi quanto durerà. Senta, quindi Cesare, tutto, noi oggi vogliamo un po' raccogliere istruzioni per l'uso, ci dia la sua istruzione. E poi... per questa, che gli insegnanti comincino a premiare quelli che devono essere premiati e non a fare del buonismo e il famoso sei politico di portarlo. Chi deve essere, chi deve studiare vada avanti, e sa studiare vada avanti, chi non sa studiare può riempire altri spazi meno... Quindi insomma una posizione molto decisa. Molto, sì, perché sì. È come il chirurgo, che se a un certo punto la piaga si infetta, bisogna tagliarla. Oh mamma mia, un rapido commento da Manuela Trinci e da Alberto Pellai. Dunque, io devo dirle che in questi incontri con numerosi ragazzi, 400 ragazzi, quindi nel complesso, quindi tanti, devo dire che non mi sembravano così disillusi rispetto al loro futuro. Una delle problematiche, anzi, che i ragazzi portavano di più è che cosa si farà da grandi. Cioè, sono molto consapevoli che avranno difficoltà a trovare lavoro, sono in difficoltà a trovare la facoltà giusta per loro. Cioè, devo dire che avendo così più di rado contatti con grandi numeri di studenti, di ragazzi, avendone di più in ambulatorio, mi hanno anche stupito per la capacità che invece hanno di riflettere su se stessi e, ripeto, di vedere in maniera anche curiosa e divertente e affettuosa le loro famiglie. Non tutti, ovviamente. Certo, poi condivido, la scuola deve fare come i genitori devono fare i genitori, la scuola la scuola. Alberto, fai anche tu il tuo lavoro. Rispetto a quello che dice Cesare, però io gli rispondo sui giornali. Proprio questa settimana, lunedì, c'era un'epidemia di articoli che parlavano di 5 in condotta dati a profusione nelle scuole italiane, con un incremento di quasi il 20% rispetto all'anno scorso. E poi io, guardando un po' dentro i dati, rimanevo molto colpito, perché il 5 in condotta era epidemico soprattutto nella prima e nella seconda classe della scuola superiore. Secondo me è un dato che dice che forse la scuola non ha troppo buonismo, forse c'è anche un problema relativo al fatto che tanti ragazzi entrano dentro alla scuola senza avere le idee chiare di che cosa li aspetta, e quindi va proprio costruita una corresponsabilità adulti ragazzi, e si deve capire qual è il meccanismo che fa funzionare uno studente a scuola. Cesare, grazie per essere stato con noi. Vado da Aldo, che ci chiama da Milano. 800 24 00 24. Aldo, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di avermi fatto intervenire. Io, più che consigli, istruzioni per l'uso non le darei. Volevo riallacciarmi al discorso iniziale di dove discutere con mia moglie della bambina. Io ho avuto una bambina, diciamo, a 2 anni, e ha avuto dei seri problemi alla nascita che se l'è trascinati per i primi 6 mesi. Sì. Da me c'è proprio uno scontro con mia moglie su come gestire, nel senso, mia moglie è la mamma e la capisco, lei ha un modo di vedere, di ragionare totalmente diverso dal mio, cioè se io quello che faccio sembra che la bambina la esponga al pericolo, mentre quello che fa lei è tutto giusto. La capisco, Aldo. Io sono il papà, e il papà è diverso alcune cose. Io, cioè, mi viene anche da piangere a volte a pensare a queste cose qui, perché, come si dice, non lo so, mi sembra di sbagliare. Ne discutiamo e si accendono anche discussioni molto, molto fervide con mia moglie, cioè proprio ci si incavola, detto volgarmente. Sì. Tra me e lei. Senta, Aldo, io le passo Alberto, perché Alberto sta coltivando da anni nel cerchi del papà questa figura nuova del papà che deve affiancare la mamma, e quindi anche i papà stanno, non solo ora, non solo grazie ad Alberto Pellai, ma sicuramente Alberto sta facendo un lavoro, stanno trovando veramente un loro ruolo, stanno interessandosi sempre di più ai figli e lo fanno in modo costruttivo, Alberto, senza darci troppo fastidio. Alberto. Cioè, secondo me Aldo sta facendo un lavoro importante, cioè le mamme effettivamente tendono a proteggere, sono un po' invischiate con i loro bambini piccoli perché li hanno avuti in pancia e poi gli danno da mangiare e sono i loro cuccioli, ecco. Però un papà deve proprio regalare un paio d'ali a un figlio, e il papà, soprattutto l'età della figlia di Aldo, 2 anni, è proprio un'età in cui il papà deve separare questa figlia dalla sua mamma e un po' farla volare. Certo. Credo che loro abbiano il problema anche della malattia della bambina, per cui probabilmente la mamma la vede un po' fragile e quindi sente ancora di più di doverla proteggere, magari dalle mani un po' maldestre del papà, che però, proprio perché maschili, daranno a quella bambina il senso del maschile e del paterno, che è diverso dal materno, e quindi serve a un figlio sperimentare entrambe le cose. E quindi si trova proprio Aldo, discutendo, senza litigare, ribadisca il suo ruolo e faccia un contratto con sua moglie. Cosa mi lasci fare tra le cose che io voglio fare con nostra figlia? Avremo ancora Fabio dalla provincia di Lecco, che dobbiamo salutare perché dobbiamo chiudere. Fabio? Sì, pronto. Buongiorno. Sai che devo salutarla solo a metà perché il tempo a nostra disposizione è finito? Che cosa ci raccontava? No, da insegnante avevo colto lamento sui giovani d'oggi cosiddetti, e devo dire che io ci sto, perché sono uscito da scuola 20 minuti fa. Non mi pare che la situazione sia così terrificante. Sì, come abbiamo sottolineato noi. Esatto. Ci sono però delle angolature diverse. A me accusano di essere sempre un po' quella che crede troppo nei giovani e di parte, perché io ho 2 figlie di 20, di 18 anni, e guardandole io dico che il futuro è nelle loro mani, ma io mi fido e devo cercare in qualche modo di far sì che queste mani siano mani che riescono a tenere i pesi. Dottoressa Trinci, una battuta prima di salutarci, che stiamo sforando. Una grande poetessa russa, Anna Akhmatova, scrive: ma perché non avrei dovuto crederci? E con questa domanda chiudiamo. Magnifica. Alberto, noi prossimo sabato, noi ci sentiamo lunedì per, alle 11 per la salute. Intanto buonissima giornata da Nicoletta Carbone, Manuela Trince e Alberto Pellai. Voilà!